domanda della domanda, ma Martini come si è avvicinato alla musica? Beh, Martini è tanti anni che ascolta e che suona musica. Arrivo da ascolti un po' distanti da quello che faccio ora. Ero molto più in linea con un rock un po' più pesante, il blues. Però piano piano, grazie ad ascolti, ad amici, mi sono avvicinato all'indie rock, al pop. Diciamo che ascolto un po' di tutto. Okay. Non mi voglio mettere dei limiti. Beh, è importante. E penso che sia la cosa più importante se uno fa musica, non porsi limiti. Esatto. Almeno a livello di ascolti, poi. Sì, ma anche del suonare, secondo me, perché da tutto si può avere ispirazione, può prendere tutto, diciamo. Chiaro, chiaro. E tu comunque suoni avendo un nome d'arte. Mi piace chiedere, quando le persone comunque si attribuiscono un nome d'arte, ma esattamente per te cosa rappresenta essere Martini? Essere me stesso. Perché non ho voluto trovare un nome diverso, perché alla fine questo è un progetto che parla di me, mi metto la faccia in prima persona, quindi non mi nascondo dietro un gruppo, cioè ho voluto metterci la faccia, diciamo. Ok. Quindi. Beh sì, perché molto spesso ci sono dei nomi che creano degli alter ego, poi, no? Sì, sì, esatto. No, invece in questo caso ho voluto essere proprio te stesso, io in prima 100%. Persona, sì, esatto. Quindi sei Alessandro, appunto, perché Martini è il tuo cognome. È il mio cognome. L'ha anticipato prima Gio, che Affittami è il tuo secondo singolo. Sì, è il secondo singolo, uscito in dicembre, e da poco è uscito anche il videoclip su YouTube, con un video particolare, direi. Ok. Che ci sono io che, insomma, ho un incontro di pugilato e... Bello! Ne prendo abbastanza. Ok. Ma quando hai scritto Affittami, cosa rappresenta per te? Beh, e come ho già detto prima, sì, è la prima canzone che ho scritto di questo su questo progetto nuovo. Direi che ho voluto raccontare un po' il periodo che stavo passando in quel momento lì. E quindi sì, diciamo che anche scriverlo, metterlo nero su bianco mi ha aiutato anche a uscire da diverse situazioni. Insomma, è un modo, è una terapia, diciamo, scrivere canzoni anche. Lo metterei in questi termini, sì. Lo diciamo sempre, ci capita spesso che gli artisti vengano con dei brani che dicono sono stati terapeutici. Sì, ed è molto bello, perché la scrittura insieme alla musica poi aiutano, può creare, sì. A proposito di singoli, fuori onda mi dicevi che presto uscirà tuo terzo singolo. Sì, esatto, e a breve, nei prossimi mesi, uscirà il nostro terzo singolo, che precederà l'album che uscirà a fine estate. Ok. E a proposito d'estate, sempre nel fuori onda mi raccontavi che ad agosto suonerai live. Esatto, sì, al Pop It Festival, che è un festival a Santo Stefano di Magra, organizzato dalla Clinica Dischi, che è la mia etichetta. Ok. E non vedo l'ora, perché è uno degli eventi, penso, più... Cioè, non lo dico perché sono... Lo fa la mia etichetta, ma proprio perché è veramente molto fatto figo. Bene, sì, okay. Ci sono sempre, cioè l'altro anno c'erano dei nomi veramente importanti. Esatto, c'era Giorgio Poi, De Leo, insomma, era una cosa abbastanza figa. Bello. Esatto. La tua etichetta, che ricordiamo essere la Clinica Dischi, esatto. Ringraziamo anche per averci permesso di averti qui in studio. Una cosa che quando io intervisto artisti mi piace sempre chiedere sono gli aneddoti. Sai degli aneddoti che vuoi raccontare, non so, quando hai scritto i tuoi primi brani, durante un live, durante la fase di registrazione? Sai una chicca, un qualcosa di particolare che ci vuoi raccontare inerente a questo periodo? Beh, ce ne sono parecchi, potrei dire. Forse quello più che un aneddoto è un periodo in cui ci siamo scervellati tantissimo per gli arrangiamenti delle canzoni, di come sono uscite, anche con i ragazzi della clinica, con i ragazzi che fanno parte appunto di questo progetto, che è Luca Carli, che è il batterista e parte integrante di tutto il lavoro, cioè che non è potuto venire purtroppo oggi, però è una parte fondamentale anche lui di tutto questo progetto, sì. E quindi sì, diciamo, tutta l'esperienza in studio è stata molto figa, è stato un bel periodo veramente. Ma è incuriosito che Dubai comunque è il tuo primo singolo, quindi chiederti come mai a livello discografico c'è stata questa scelta di eleggerlo come primo singolo del tuo lavoro discografico. Beh, perché fondamentalmente è uscito abbastanza spontanea come cosa di farlo uscire per primo, perché è uno dei pezzi che ci piaceva di più. Cioè, a me personalmente, come anche a suonarlo, è molto divertente, perché alla fine, cioè, è un giro coinvolgente. Così, e quindi, cioè, non è che ci siano motivazioni particolari, semplicemente ci piaceva. Suonava meglio. Suonava, sì, sì. E ti piaceva suonarle. Esatto, sì. E poi diciamo che è una risposta comunque anche da musicista, mi sento, sì, di dire. È bello perché appunto si fanno le canzoni per poi cantarle davanti, sì, alla, esatto, gente, sì, quindi sì. Non è che se le si fanno solo per poi ascoltarle in cuffia, è bello appunto fare, sì, penso, pezzi. Sia sempre importante fare cose che cioè, in particolar modo con le canzoni, che poi ci piaccia suonarle. Sì, pensare ai live. Sì, esatto, perché non è una cosa così scontata, secondo me. No, cioè, magari certe cose sono dettate da determinate scelte, cioè magari suona bene, però uno deve essere sempre. Sì, sì, cioè, capita a volte di sentire un pezzo in cuffia e sì, poi. Sì, esatto, dal live, vivo fa schifo, magari. Dici, cioè, ma cosa è successo? Esatto. Quindi è importante. No, ma mi piace questa cosa che appunto quando l'artista pensa anche al live. Sì, sì, appunto, cioè è fondamentale, sì, secondo me. Anche sono perché d'accordo. Diciamo che è la parte in cui c'è l'incontro con la parte più importante, esatto. Sì, sì. Ma sai che te l'ho chiesto anche prima riguardo a Fittami, a me piace sempre scoprire cosa significano le canzoni quando l'artista le scrive. Quindi ti chiedo la stessa cosa per Dubai. Beh, Dubai diciamo che è un può ti rappresentare. Ho messo in difficoltà. No, in realtà no. No, perché sono cose che quando uno te le chiede, uno rimane sempre un pochino, e diciamo che la fine poi rappresenta, diciamo, la fine dell'estate, perché è una canzone sì allegra, però con un velo di settembre che sta, sì, arrivando, sì, che sta arrivando, che sta finendo, sì sì sì, dici, quindi, ma era dietro l'angolo, esatto, cioè, sì, ieri, sì, diciamo, iniziato. Sì, come una storia d'amore che appunto è iniziata però poi finisce dal nulla, svanisce. certo. E a proposito del tuo stile musicale, ci interessa sapere comunque se hai delle influenze musicali particolari, cosa ti piace ascoltare? Beh, sì, ascolto un po' di tutto, come ho già detto prima, però mi piacciono tanto gruppi come i Libertines, gli Strokes, gli Arctic Monkeys, e poi vabbè, nel panorama italiano di ora ce n'è tanti di forti, Colombre, e vabbè, oltre ai big soliti che vengono sempre menzionati come Calcutta, immagino, queste, certo, cose qui, certo, che comunque sia, volente o nolente, uno le ascolta perché sono presenti. Però diciamo che mi garba più guardare oltre oceano, comunque sia, alla scena inglese. Beh sì, quella è, diciamo, un po' fa da scuola maestra. Eh sì, perché per... magari lì arrivano qualche anno prima. Da noi sì, siamo, sì, sempre, sì, un po' in ritardo su questo aspetto. Un po' è vero. Io ho un'ultima domanda da fare, che in realtà è una pura curiosità, se posso. Certo. Nella biografia che abbiamo letto prima c'è scritto: cantautore dalla voce straziante ma l'anima pop. È una definizione che mi piace molto, ma per te cosa rappresenta? Beh, che alla fine bisogna sempre suonare qualcosa che bisogna metterci del proprio, ma bisogna anche pensare a chi l'ascolta. Quindi bisogna fare una cosa che possa essere ascoltabile. Sì. Cioè non bisogna fare solo quello che ci piace a noi, perché sennò non usciremo da camera nostra. Cioè, pensare quindi a un bisogna interlocutore. Bisogna pensare a un interlocutore, e bisogna riuscire a capire cosa va e cosa non va in questo momento. Certo. Perché io non posso fare un pezzo da 20 minuti di assoli in questo periodo. Sì, perché non... non funziona più, funzionava no, qualche, esatto, anno fa, qualche decennio fa. Beh, anche perché appunto anche la musica. Purtroppo, perché è bello, cambia. Esatto, sentire. Sì, purtroppo il pop ha spesso una definizione, cioè sembra un brutto aggettivo quando viene affibbiato a un musicista. È vero, è vero. Cioè pop, chi, sì, suona, chi suona non vuole mai sentirsi dire te sei pop. No, invece dal momento che te sei pop vuol dire che stai facendo bene, esatto. Sì, sì, sì.